La rassegna di qua e di là dal mare nasce da una nostra esigenza, l'esigenza proprio di parlare di migrazioni, di rapporto con l'altro, con lo straniero, in questo preciso momento storico. Nasce anche dall'occasione di aver invitato l'autore appunto del libro che dà il nome alla rassegna. Il libro si chiama Di qua e di là dal mare ed è di Carlo Marconi, edito da Edizioni Gruppo Abele. Carlo Marconi è un maestro elementare di Pavia e lui si è dato subito disponibile a venire, e attorno al suo intervento ci è piaciuto costruire un insieme di proposte che potessero cogliere anche diverse fasce d'età, anche gli adulti o i bambini più piccoli, su questo tema. E infatti il 29 marzo in particolare ci sarà l'incontro proprio con Carlo Marconi, però poi in realtà la rassegna inizierà molto prima, il 22 marzo, e si concluderà poi ad aprile, quindi se ci puoi raccontare un po' anche quali altri eventi vedrà questa rassegna. Inizia tutto il 22 di marzo, che è un venerdì, il pomeriggio e la sera ragioniamo su giochi e strategie per contrastare l'odio, ragioniamo nel senso che ci giochiamo. Prima abbiamo un incontro con Beniamino Sidoti, che è responsabile della pagina Facebook Strategie per contrastare l'odio, che sta avendo un certo successo. Propone proprio quello che il suo nome dice, cioè possibilità di resistere all'odio che incontriamo ogni giorno nel discorso politico, nel discorso pubblico, sui social, attraverso delle piccole strategie assolutamente non violente che partono tutte dalla parola, dall'immagine, spesso dalla poesia. Alla sera abbiamo deciso di passare ai giochi, quelli veri, proprio i giochi da tavolo, e quindi abbiamo invitato la ludoteca Just Play, che è appena nata qui a Castelmaggiore, a costruire con noi una serata di gioco per parlare anche con i piccoli, non proprio delle migrazioni magari, ma senz'altro della diversità, del rapporto con l'altro, con quello che a me sembra molto diverso. Abbiamo poi pensato un piccolo appuntamento di lettura il sabato mattina, il 23 marzo, che si chiama Diversi per molti versi. Sono letture per bambini dai 2 anni. Questo per il primo fine settimana. Nel secondo abbiamo, come già detto, Carlo Marconi al venerdì pomeriggio. Prima saremo con lui nelle scuole, questo non l'abbiamo inserito nel programma, ma ci teniamo a dirlo perché incontrare le scuole per gli autori è sempre una cosa preziosa, e per le scuole vedere l'autore dal vivo, anche questa è una grande occasione. Al sabato pomeriggio abbiamo invece un laboratorio creato con l'illustratrice e artista Roberta Pizzi, che è di Castelmaggiore, in collaborazione con la sartoria africana Vicini Distanti di Bologna. Partendo dalle stoffe africane woks, che sono una tradizione africana che tutti un po' conosciamo, anche se magari non ne conosciamo il nome, sono quelle stoffe con disegni, fantasie molto particolari, con disegni anche concreti, proprio di animali o di persone, che hanno una storia, narrano una storia. Partendo dalle stoffe vogliamo raccontarla, questa storia, anche inventarne una con i bambini presenti. Il laboratorio si divide in 2 parti, la prima è la parte laboratoriale vera e propria, mentre poi nel tardo pomeriggio apriamo le porte della libreria, ci riversiamo sulla piazza e con i bambini presenti al laboratorio raccontiamo la storia a chi vorrà venire, genitori ma anche la cittadinanza. Chiudiamo con un ultimo appuntamento il sabato 6 aprile al mattino, è una serie di laboratori di cucito creativo che abbiamo iniziato già da tempo in realtà con Rita Venturoli di OO Handmade, è una creatrice di pupazzi, astucci e altri oggetti fatti a mano col cucito. Lei questa volta partirà da un libro che è Terraneo di Gallucci Editore, che racconta una leggenda in cui il mare Mediterraneo diventa terra e tutte le città che sono sulle sue sponde si trovano sulle rive di questa isola, e ognuna con la sua caratteristica. E quindi partendo da questa storia che si presta alla lettura per bambini più grandi, insomma diciamo delle scuole elementari, noi lanciamo un laboratorio di cucito creativo cucendo una barchetta, un po' simbolo dell'unione tra le sponde del Mediterraneo. Quindi insomma sarà una rassegna di eventi incentrata appunto intanto sulla partecipazione proprio dei bambini, ma anche che passa sia dalle parole ma anche poi dall'attività proprio pratica, diciamo. Sì, parole, gioco e anche appunto attività pratica, ascolto anche molto. Ti faccio un'ultima domanda, che è, secondo te, diciamo, visto che appunto state organizzando questa rassegna, mi pare di capire che comunque di insomma laboratori, attività con e per i bambini già ne fate, quindi un parere, secondo te come si fa a spiegare appunto, a dare una visione diversa, diciamo, del mondo da quella che, di cui purtroppo oggi siamo un po' bombardati proprio ai bambini, e se nella tua esperienza, diciamo, è difficile o invece sono magari dei soggetti con cui è anche più facile parlare? Beh, io ho la fortuna di avere a che fare qui con i bambini o i ragazzi, comunque con persone ancora molto giovani che hanno un'apertura che noi magari non incontriamo negli adulti, diciamo in una parte, o almeno in quella che tristemente sembra sembrare maggioranza, insomma, degli adulti, anche se non voglio credere che sia così. Nei bambini l'apertura è maggiore, e questo fa sì che una buona storia, anche una buona poesia, un racconto possa far nascere delle domande, assolutamente anche senza convogliargliele così in modo pedagogico o didattico, ma lasciando che la storia faccia il suo lavoro. Quindi una buona storia, una buona poesia può scatenare delle riflessioni che diventano una ricchezza per loro, la possibilità di vedere il mondo da un altro punto di vista.